La colonna solidale intanto è un progetto di mutuo appoggio, mutuo soccorso e solidarietà dal basso, si chiama appunto colonna solidale autogestita proprio perché l'abbiamo costruita come un progetto, ripeto, dal basso, al di fuori delle istituzioni, per cui non facciamo parte di altre reti costituite, ma abbiamo deciso di metterci in prima persona per cercare delle soluzioni pratiche, operative, solidali per coloro che insomma in questa fase di virus stanno soffrendo particolarmente l'emergenza, un po' perché hanno perso il lavoro o perché erano precari già prima o perché non riescono a pagare l'affitto. Insomma, abbiamo cercato di costituire qualcosa che potesse dare un supporto reale alle persone più in difficoltà e lasciate fuori dalle maglie dello Stato, dalle maglie degli ammortizzatori sociali. Ovviamente ci mettiamo dietro un punto di vista assolutamente politico, nel senso che abbiamo una visione ovviamente molto critica della gestione dell'emergenza attuale, ma abbiamo una visione molto critica dell'organizzazione sociale in generale. Sicuramente da anarchici e anarchiche siamo contro tutti i tipi di gerarchie, contro tutti i tipi di discriminazione e di oppressione. Sono diverse le azioni che la colonna solidale compie, raccontatecele. Abbiamo fondamentalmente tre tipi di servizi che svolgiamo. Facciamo il servizio di consegna e spesa a domicilio di prodotti che tentiamo di recuperare attraverso donazioni oppure attraverso dei circuiti di economia virtuosa che riconosciamo, tipo nei mercati campi aperti o tipo nei prodotti genuini clandestini o tutto quello che viene convogliato allo spazio popolare autogestito, che è un progetto che sta in piedi al Circolo Anarchico Berneri da ormai 3 anni. Poi facciamo un servizio di consegna di medicinali e prodotti per la cura della persona, per chi ne avesse necessità, sia a casa che per strada. Abbiamo creato una serie di magazzini diffusi e una serie di compagni che si sono auto-organizzati con la raccolta di questi prodotti e che fanno anche consegne direttamente a persone che in situazioni di più grave disagio non hanno nemmeno una casa. E in più facciamo un servizio di portello medico con una specie di consultorio telefonico in cui diamo informazioni. Fino a questo momento l'abbiamo fatto esclusivamente telefonico per una questione legata appunto alle restrizioni in corso. Le persone che beneficiano insomma delle vostre iniziative, come entrate in contatto con loro? Intanto abbiamo cercato il più possibile di dire alle volontarie e volontari che ci stanno aiutando di attivarsi in maniera autonoma, nel senso che abbiamo pensato che il modo migliore per arrivare capillarmente fosse quello di attivarsi per quanto riguarda, diciamo, le reti di prossimità, quindi proprio il territorio, le zone vicine. Quindi ci siamo più o meno suddivisi per zone, infatti c'è un gruppo della Bolognina, c'è un gruppo più legato alla zona di San Donato San Vitale, dove tra l'altro ci sono 2 punti di raccolta che sono al VAG al martedì in occasione del mercato di Campi Aperti e al laboratorio L'Isola che sta in via del Terrapieno. Alle persone siamo arrivati un po' attraverso contatti diretti, alcuni di noi conoscevano persone che insomma si trovavano in stato di grave disagio. Quando dico grave disagio dico davvero grave, nel senso ci sono persone che proprio non mangiano il giorno dopo, è fortissimo il problema ovviamente del pagamento dell'affitto, ma soprattutto del pagamento delle bollette. Questa cosa la dico perché appunto sto seguendo una famiglia che in questo momento ha per i problemi, perché sono in 8 in una casa, gli staccheranno a giorni sia il gas che l'elettricità perché non sono in grado di pagarli in questo momento, quindi insomma la sospensione dei distaccamenti non è una realtà, ecco, soprattutto per le persone in più grave stato di disagio. Altre persone invece hanno trovato i nostri volantini, le nostre locandine in giro, perché abbiamo cercato anche qui di fare un po' di diffusione, e ci hanno chiamato al numero di telefono che magari ne approfitto per ricordare: 051 05 48 321, il sito è colonnasolidale.org. attraverso questi canali che abbiamo avviato ci sono arrivate diverse richieste, ci hanno girato diverse richieste dall'associazione Sopra i Ponti, che si occupano di dare sostegno soprattutto alle persone migranti, e loro ci hanno indicato alcune situazioni appunto abbastanza gravose. Questa colonna solidale può stare in piedi anche perché ci sono persone che non si trovano in stato di disagio e che invece mettono a disposizione degli altri o, come dire, il proprio lavoro volontario per, appunto, avete detto, la consegna della spesa, oppure possono contribuire anche materialmente. Sì, abbiamo attivato un paio di possibilità. Uno sarebbe la consegna sia di prodotti già acquistati oppure una donazione proprio in soldi, che facciamo qui al Circo Anarchico Berneri al giovedì dalle 15 alle 18. E in più abbiamo studiato anche la possibilità di una donazione online, vedendo nel sito colonnasolidale.org c'è un tasto dona in cui si può fare una sorta di bonifico a un conto corrente che abbiamo attivato per l'occasione. Che vantaggi, chiamiamo così, che valore aggiunto ha un'iniziativa dal basso in questo senso? Ha vantaggi su diversi piani, ovviamente. Mi verrebbe da dire, la prima cosa è il fatto di cercare di stare il più possibile al fuori delle logiche del capitalismo, che ovviamente sono supportate soprattutto in questo momento in cui l'unica cosa che si poteva fare era comprare da mangiare. Se quelle dinamiche istituzionali di intervento che si sono avviate in questo periodo avevano, dal nostro punto di vista, il grosso problema del fatto che si rivolgevano tutte alla grande distribuzione organizzata con delle logiche non sempre pulitissime. E poi, appunto, come dicevo prima, il nostro è è un'attività di stampo propriamente politico, cioè quello che noi facciamo non è fare della beneficenza e aiutare i più poveri, anche perché c'è chi lo potrebbe fare sicuramente meglio di noi. Quello che ci interessa è curare soprattutto le relazioni, starci vicino, cioè preoccuparci in maniera diretta di chi ci sta intorno, vedere come sta e costruire solidarietà. È appunto quello che già da dai tempi di Kropotkin, quindi insomma delle origini del pensiero anarchico, è stato definito come mutuo appoggio, che è assolutamente qualcosa che noi vogliamo portare avanti, vogliamo portare nella contemporaneità, che ci manca moltissimo, perché appunto tutto ciò che si svolge all'interno delle logiche istituzionali non segue il principio anti-autoritario che in quanto anarchici difendiamo come cosa fondamentale, ma si basa soprattutto sulla logica della delega e della rappresentanza. Noi invece siamo per l'azione diretta e soprattutto per la responsabilità individuale in prima persona e per le relazioni anti-autoritarie e non gerarchiche.